concetto complicato, cercare pace scuro in fronte, contrasto ideato da chi ci parla ma non ci sente. Gira nella mia testa, gira nella mia testa. Lontano un soldato che giostra armi intollerante, a stringere una mano dalla sua differente. E l'arma in mano resta, e l'arma in mano resta. E sento rabbia nella mente crescere, verso chi i suoi interessi vuol dipendere. E ci mente, e ci mente, e si mente. E chiude un occhio il prelato al fatto eclatante che ci si accenta questo mondo in guerra sofferente. Gira nella mia testa, gira nella mia testa. E resto oggi disgustato dal fare del potente che cerca del suo regno il primato e non può saperne niente. Vuoto nella sua testa, vuoto nella sua testa. E sento rabbia nella mente crescere, verso chi suoi interessi vuol dipendere. E ci mente, e ci mente, e ci mente. Crescere verso chi i suoi interessi vuol dipendere. E ci mente, e ci mente, e ci mente. E si mente.